Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey e dalla redazione di Van Loon. Ben ritrovate e ben ritrovati sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Anche quest'anno siamo pronti a tenervi compagnia il sabato pomeriggio, per l'appunto a quest'ora, e a partire da lunedì sul nostro sito www.radiovalloon.info con le nostre chiacchiere su libri di storia, canzoni e dischi che raccontano la storia, fumetti che raccontano la storia e storie che hanno a che fare con la storia. Scusatemi il gioco di parole, ma questo ci permette anche di entrare nella nostra puntata di oggi, la prima di questa stagione che si preannuncia veramente molto molto ricca. Storie che parlano di storia, perché oggi iniziamo la nostra stagione con una rubrica che vi presentiamo subito, che è la rubrica della Petit X, una speciale rubrica che abbiamo sempre dedicato alle storie di vita. La storia è fatta naturalmente di grandi eventi, passaggi epocali che andiamo a ricostruire con l'ausilio di storiche e storici, ma allo stesso tempo è fatta anche di percorsi biografici e che ci sembrano molto interessanti perché ci raccontano un altro volto, un'altra maniera con cui si può entrare all'interno del passato, ci raccontano le emozioni. E la puntata di oggi è proprio una storia personale, è una storia di emozioni, di lotte e di vita politica, vita intensa del Novecento. Ma passiamo la parola alle altre ragazze della redazione. Lo scorso 20 settembre è morta Rossana Rossanda e abbiamo deciso di dedicare la puntata di apertura di questa nuova stagione alla sua storia, o meglio a un frammento della sua storia. Abbiamo letto con molto interesse la galleria di ricordi e lettere dedicate e ci siamo un po' sorprese di non trovare molto, forse nulla, su come Rossanda abbia attraversato lo snodo del 77, nonostante sia in tempo reale sia negli anni successivi abbia scritto pagine molto interessanti. Ma prima una breve biografia. Neanche ventenne, Rossana Rossanda è partigiana, nome di battaglia Miranda. Dopo l'8 settembre, infatti, si rivolge al suo professore, il filosofo Antonio Banfi, che si sussurrava tra i corridoi della statale di Milano fosse un comunista, e lui la indirizza verso il PC. A soli 27 anni, nel 51, dirige la Casa della Cultura di Milano e a metà anni 60 viene chiamata da Palmiro Togliatti a Roma a dirigere la Commissione Culturale del PC. Deputata del Partito Comunista, Rossanda è una compagna dalla visione lucida, internazionalista, cosmopolita ed eterodossa. Per questa sua natura umana e politica, vive un primo attrito con il partito nel 1956, quando è ancora alla Casa della Cultura a Milano, in seguito alla repressione della rivolta in Ungheria. Viene espulsa dal PC nel 68 a seguito di un suo intervento al congresso del partito contro l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, del socialismo dal volto umano di Dubček. Di fronte a questi eventi drammatici afferma testualmente: «Siamo qui riuniti mentre l'esercito di un paese che si dice socialista sta occupando un altro paese socialista». Così tra il 68 e il 69 fonda insieme a Luciana Castellina, Lucio Magri, Luigi Pintor, Valentino Parlato, Eliseo Milano e Aldo Natoli la rivista Il Manifesto, che avrebbe dato il nome a questo gruppo politico e poi sarebbe diventato quotidiano nel 1971. Rossanda avrebbe poi lasciato Il Manifesto a causa di divergenze interne solo nel 2012. Prima di leggere insieme alcuni scritti sul 77, andiamo in musica con un pezzo di un gruppo britannico, cioè Chumbawamba, decisamente snobbato per la loro mutazione pop degli anni 90, che li ha portati alla vetta delle classifiche mondiali, ma dal passato anarcho-punk crassiano. I membri della band sono cambiati molte volte nel tempo, originariamente però vengono dal profondo nord industriale dell'Inghilterra e hanno sempre mantenuto una bella abitudine, cioè quella di organizzare concerti per i benefit in supporto di scioperi di minatori e operai inglesi dai loro inizi in poi, nonostante il successo raggiunto. Questa canzone che vi facciamo ascoltare, Thumping, è un brano tra i più trasmessi delle radio e TV negli anni 90, ma contiene un inno alla lotta e alla resistenza della working class. Infatti le parole del famoso e quasi ossessivo ritornello, che sono «Vengo colpito e abbattuto, ma mi rialzo, non potrete mai fermarmi», fanno ben intendere che è un messaggio dritto dritto al primo ministro uscente, Thatcher, e ai New Times inglesi del nuovo Labour. Il gruppo non ha dimenticato infatti le sue origini nelle sue ferite di classe e questa canzone la vogliamo dedicare a Rossanda. Negli anni 60 e 70, al sostegno degli obiettivi del movimento operaio, Rossanda affianca l'osservazione attenta delle trasformazioni culturali e sociali che stanno attraversando il paese. Sostiene e interpreta il ruolo e le potenzialità dei nuovi soggetti sociali emergenti dell'epoca del teatro della politica, cioè i giovani e le donne. Proprio agli inizi del 68 scrive quello che noi oggi chiameremo un instant book, l'anno degli studenti, finito di stampare a giugno del 68, sulle proteste che stavano attraversando il paese, nel quale mette in luce la profonda divergenza tra questo movimento e tutto ciò che è venuto prima. Dice infatti: a monte dell'anno degli studenti sta il logorarsi della forma politica che parve rinnovatrice agli inizi degli anni 60. 10 anni dopo, Rossana Rossanda interviene sulla rivista provinciale Bologna Incontri del 78. La rivista è una fonte in sé molto importante perché si trasforma e cambia il proprio profilo redazionale nel marzo del 77, nel tentativo di fare da ponte di interazione tra istituzioni cittadine e il fermento culturale e politico giovanile. L'intervento di Rossanda, che viene pubblicato nel numero di luglio-agosto 78, e la trascrizione di un suo intervento al convegno di Bologna dal titolo «Comunisti, potere e dissenso, analisi di un'esperienza dal vivo», che prendeva spunto dal libro «Intervista di Zangheri», curata da Fabio Mussi sul movimento del 77. Io ho visto a Roma un grosso movimento, differente dal 68, aspro di protesta con forti elementi di disperazione e con un'affermazione di un bisogno di cambiare che non trovava e non vedeva nella società presente la possibilità di un cambiamento. Credo che la non recepibilità di questo fenomeno nelle strutture di Bologna ha semmai messo in luce il carattere proprio al contrario di quello che hanno sostenuto gli intellettuali francesi. Non perché Bologna fosse la città più repressiva o oppressiva, ma forse perché era una delle migliori città d'Italia. È simbolico il fatto che quella ondata sociale di movimento abbia assunto quella forza di impatto e abbia sperimentato un'impossibilità di recezione. Non è che adesso ci sono i marginali che una volta non c'erano, è che in Italia e anche in altre società di capitalismo matura, ma con una connotazione particolare in Italia, la marginalizzazione investe grosso modo prima di tutto il settore dei giovani, cioè quello che era stato relativamente protetto in altre società. In secondo luogo investe un settore di acculturati, come si dice adesso, che hanno recepito una cultura che non è soltanto un sapere, una coscienza di sé, un'ideologia promozionale, per cui non sono disposti a qualsiasi lavoro, ma sono anche acculturati di quella cultura non scolastica che è la straordinaria politicizzazione del nostro paese. Hanno i giovani del 77 rispetto non dico ai marginali del secolo scorso, ma anche a zone di marginalizzazione degli anni 20, anche perfino a quella parte di marginalità che si creò in Italia fra il 48 e il 50, questo. Sono figli della grande spinta all'espansione, della grande spinta di sinistra, della fine della crisi dell'integrazione capitalistica. Non credono più che il capitalismo sia capace di integrarli politicamente. Sono anche figli della crisi delle facili speranze socialiste. I giovani del 77 rispetto a quelli del 68 hanno alle spalle un decennio in cui anche gli elementi più semplicemente utopici del 68 e anche certi punti di riferimento internazionale sono venuti a mancare. Sono frutto di una crisi, a mio avviso, strutturale, non riassorbibili in questo modello di sviluppo capitalistico, non lo sono né in Italia né in altri paesi e quindi rappresentano un soggetto politico-sociale di tipo nuovo rispetto a quella che abbiamo chiamato fino ad oggi marginalità. Come si colloca nel rapporto col proletariato? E il proletariato come si colloca nel rapporto a questo tipo di movimento emergente? Resterà una contraddizione simile, del resto, per molti versi al movimento femminile. Io credo che non ci sia una strategia del movimento operaio perché non c'è nella cultura storica del movimento operaio. È questo che il 68 aveva e il 77 non ha più. Non vede se stesso, il movimento del 77, come un movimento progettuale. Non è vero che si vede come un operaio sociale, è un movimento di rifiuto e di protesta. Sono posizioni che Rossanda ribadisce e approfondisce negli anni successivi, anche in occasione degli anniversari, come nel libro 1977, scritto insieme ad altri e uscito per Manifesto Libri, dove invita a studiare il 77, ricostruisce la genesi del movimento, lo confronta con il 68, ne trae le sue amare conclusioni, analizza il mutamento del soggetto di lavoro a cavallo tra gli anni 70 e 80 e gli elementi inediti di rottura con il PC e con il sistema dei partiti. Del Partito Comunista scrisse in questo libro: «Non è più un partito che nella democrazia persegue una forma di trasformazione sociale e statuale. Gli è bastata la minaccia della recessione per ridare legittimità all'impresa e quella del terrorismo per ridare legittimità allo Stato. Ne risulterà un'assenza, quando non una complicità, dei comunisti nei processi di degenerazione dello Stato e di ristrutturazione del sistema produttivo. Il sindacato ne farà le spese con la sconfitta più grande del dopoguerra». Rossana Rossanda non è mai stata la femminista di punta del femminismo all'italiana, così radicale e così a volte lontano dalla politica istituzionale e con il pericolo sempre dietro l'angolo di autoisolarsi. Ma Rossana Rossanda, con le sue contraddizioni, i suoi fastidi, i suoi irrisolti, ha abbracciato e riconosciuto le potenzialità del movimento delle donne e non l'ha mai risparmiato di critiche e polemiche. Ne ha scritto, ne ha supportato le lotte, ne ha parlato in radio, ma soprattutto, a testimonianza della sua immersione nel femminismo, ci sono i rapporti che ha stretto con voci autorevoli del femminismo italiano, come per esempio Lea Melandri e la Ida Dominianni, della quale citiamo un pezzo. Non si capisce niente dell'esperimento manifesto, del manifesto secondo Rossanda almeno, se non si parte da questa passione della libertà, che ha consentito a chi l'ha condivisa di leggere il presente, violando le certezze del partito preso e i criteri dell'informazione mainstream. Il contrario dell'ideologia, l'opposto del conformismo, l'inverso del minoritarismo. Questa era Rossana e questo ci ha sfidati e sfidati a essere. Non era una sfida facile, soprattutto per noi donne, perché quello stesso senso forte della singolarità e della libertà la rendeva allergica a qualunque identificazione che potesse vagamente evocarle il fantasma del gregarismo. Sicché più ti avvicinavi, più lei si allontanava. E perché Rossana era una madre fragile ma potente come tutte le madri ed esigente come poche, soprattutto verso le sue simili, a maggior ragione da quando aveva visto nel femminismo un'irruzione di libertà che a sua volta la sfidava e la metteva in discussione. Ma è stata una sfida generativa di posizioni culturali e politiche che altrimenti non sarebbero esistite nel panorama italiano e che nello stesso manifesto non sono state prive di ostacoli e conflitti. Prima di avviarci alla conclusione della puntata andiamo ancora in musica con un bellissimo brano di Barbara Dane dedicato alle lotte della classe operaia del Nord America, dal titolo inconfondibile I Hate the Capitalism System. I hate the capitalist system and I'll tell you the reason why. It has caused me so much suffering and my dearest friends to die. Well, I know you all are wondering what it has done to me. Well, I am going to tell you that my husband has TB, brought on by hard work and low wages and never enough to eat, from going cold and hungry with no shoes upon his feet. My husband was a coal miner who worked hard and risked his life just trying to support three children, himself, his mother and wife. Well, I had a blue-eyed baby, was a darling of my heart, but from my little darling her mother had to part. While the rich and mighty capitalist goes dressed in jewels and silk, my darling blue-eyed baby has died for the want of milk. Well, they call this land of plenty, and for them I guess it's true. For the rich and mighty capitalists, not for workers like me. Well, now, what can we do about it? To these men of power and might, well, I tell you, Mr. Capitalist, we are going to fight, fight, fight. Abbiamo sempre pensato che Rossana Rossanda fosse eterna. Quella di Rossanda era una di quelle voci nel dibattito politico che incuteva timore reverenziale a noi che da molteplici punti di partenza abbiamo incontrato la militanza, la politica e la storia contemporanea. La Rossanda ce la rivendichiamo ancora con passione, come migliore rappresentante di una storia del secolo scorso cui sentiamo di appartenere. Ancora oggi rimaneggiamo i suoi scritti, che forse non ci corrispondono più completamente, ma che rimangono essenziali per continuare a farci delle domande su da dove veniamo, in quale paese viviamo e dove vogliamo andare. Il Novecento è stato il primo secolo della presa di parola collettiva e questo è successo anche grazie a una ragazza come Rossana Rossanda. Questa prima puntata di Walloon volge veramente al termine. Abbiamo cominciato davvero bene con la rubrica Le Petite Tix, con la biografia di Rossana Rossanda. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre alle 14, sempre su Radio Città Fucico, ma per ascoltare i nostri podcast basta che andiate su www.radiovalloon.info e alla settimana prossima. For all those feet in ancient time, stepping out of line, dragging time and tide against the keepers of the past, the flags of class and caste limp upon the mast. All your week you were someone's slave. Today you're a free man. If they tell you you can't, then you can. You can, you can, you can. You can, you can. Walking high upon the hill, shot against well-heeled, a butterfly breaks upon the wheel. A compass and a cap, a sing-song and a scrap, a dotted line across the map. All your week you were someone's slave. Today you're a free man. If they tell you you can, then you can. You can, you can, you can. You can, you can. You can, you can, you can.